Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari radioascoltatori. E oggi parleremo di un argomento che è molto controverso, molto dibattuto. Parleremo di TripAdvisor, questo sito che ha 150 milioni di recensioni e oltre 2 miliardi di visitatori all'anno in tutto il mondo. È molto contrastato non solo in Italia, ma un po' ovunque. Ci sono cause, ci sono ricorsi, ci sono denunce. Insomma, cosa sta succedendo a TripAdvisor? Oggi lo vedremo e devo anche precisare di aver invitato TripAdvisor ad essere presente a questa trasmissione. E prima la portavoce era impegnata in viaggio, ha demandato a un collega che ha detto no, grazie. E quindi oggi purtroppo faremo questa trasmissione senza la controparte. Me ne dispiace molto, ma d'altronde l'invito era stato fatto. E allora cominciamo con, diciamo, una serie anche di casi importanti. Poi ne aggiungerò qualcuno anch'io molto divertente e darò poi una grande sorpresa per capire anche come si possono ottenere delle recensioni positive. Sì, lo faremo e lo sentirete. Bene, cominciamo da un ristoratore noto fuori Milano, ma è noto anche a Milano. Si chiama Matteo Sibiglia e dell'Osteria della Buona Condotta a Ornago. Buongiorno Sibiglia. Buongiorno, sei in treno, però ecco, velocemente. Sì. No, ma io so che tu hai avuto una recensione completamente inesistente, cioè completamente fasulla. Assolutamente, sì, ma qualche mese fa, prima di Natale dell'anno scorso, un nostro cliente ci avverte di questa recensione di una signora che era venuta e aveva scritto che aveva mangiato degli alici, cosa che io in 20 anni che faccio il ristoratore non ho mai avuto, e soprattutto aveva scritto che il cuoco, cioè il sottoscritto, era meglio che se ne stesse in cucina perché è un po' chiacchierone, arrogante e presuntuoso. Allora, più altre cosette, ma i due casi più eclatanti sono questi due elementi. Allora, io gli alici non li ho mai cucinate, mai, perché faccio la cucina lombarda, e soprattutto tenendo riferimento a quello che la signora scriveva sul sito, il giorno prima, comunque quel giorno in cui lei aveva indicato la visita presso il mio ristorante, io la sera non c'ero perché io insegno e quella sera ero a scuola. Caso molto eclatante, che dimostra come a volte TripAdvisor sia veramente, o uno strumento. Io voglio precisare, perché io per 10 anni ho avuto in carta un antipasto fantastico che erano gli alici, le acciughe del Mar Cantabrico sott'olio, col pane tostato, burro salato, eccetera, eccetera. Però è più di un anno che io questo piatto non lo tengo più. Dopo 10 anni mi sono stancato. Beh, sì, l'ho tolto. Si vede che c'è stata una vendetta consumata a freddo, Matteo. Bene, grazie del tuo caso, perché ne ho tanti da raccontare. Allora andiamo sempre in treno, perché anche Alberto Lupini, direttore di Italia Tavola, è in treno. Lui ha vissuto un'esperienza che ha raccontato magari sul suo giornale con grande dovizia di particolari. L'Ostrica Ubriaca Restaurant. È così, Alberto? Certo, ciao Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima che cadi alla linea, ci puoi raccontare velocemente? Sì, ma questo era uno dei tanti casi che noi abbiamo raccontato ormai da tempo. Allora, in questo ristorante, in attesa di prendere il traghetto per ripartire dalla Sardegna, la scelta era avvenuta perché era in testa alle classifiche e siamo andati. E il problema era che di quello che era tutto indicato, questi piatti meravigliosi, 4 su 5 non c'erano, non li avevano. L'ambiente, meravigliosa terrazza sul porto, era semplicemente il secondo piano con delle finestrelle che guardavano su delle barche. E poi c'erano queste situazioni veramente deliranti, quasi del commenti positivi. Allora io, molto banalmente, ho fatto una piccola recensione, ma senza parlare male, dicendo che mancavano queste 2 o 3 cose. Beh, la recensione è uscita, credo, dopo 2 giorni. Nel frattempo però sono uscite 5 recensioni a 5 stelle, perché dovevano precedere la mia. Ecco, questo che a volte non funziona nel sistema. E allora mi permetti appunto di lanciare questa cosa che ho detto, che è abbastanza clamorosa. Basta andare su www.tripadvisorsuccess.com per verificare che funziona in tutta Europa, in tutto il mondo, e dice: ottieni la più alta valutazione possibile rapidamente, tutto prenotato con votazioni medie più alte, attingi da 50 milioni di visitatori al mese, crea un'esperienza sorprendente per i clienti, promuovi recensioni positive, previene recensioni negative, recensioni positive aumentate, 7 giorni di prova. Bene, credo che probabilmente in questo caso, forse, non vorrei dire che sono ricorsi a questo, ma credo che ci sia questa possibilità, quindi perché no? Comunque, grazie a Alberto Lupini che sta andando a Firenze, dove ci sarà un convegno proprio anche su questo argomento, quindi sicuramente continueremo a parlarne e a discuterne. Sentiamo un radioascoltatore, Aldo dalla provincia di Padova, veloce Aldo. Buongiorno Davide, sì. Sono Aldo Stonaro di Ristorante Letizia e due Carrare. Sì. Allora, una piccola premessa, io penso che il cliente che frequenta il ristorante ha anche il diritto di fare tutte le critiche, anche le negative sul locale, però da questo a dire cose magari che non esistono ce ne vuole. Noi accettiamo, anzi le critiche ci fanno bene per il nostro lavoro, però come diceva quel ristoratore di Milano, ci sono delle critiche che magari di gente che non è neanche mai venuta o che ho sentito dire che magari che il locale si spende tanto, che non ha la qualità buona, però voglio dire, dopo il successo del locale è dato anche da una frequentazione dei clienti che lo frequentano, che continuano a frequentarlo e sanno la qualità del cibo. Poi dopo, cosa vuoi, le recensioni cattive? Io premetto che non rispondo mai alle recensioni, perché non né alle buone né alle cattive. Bene. Però così va il mondo, dai. Grazie Aldo dalla provincia di Padova. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di TripAdvisor. Ecco, io avrei voluto appunto i responsabili perché ci raccontassero come, se sono filtrate, se sono controllate, se sono sempre completamente anonime, quando arrivano delle verifiche o arrivano anche così, diciamo, qualche ristoratore scrive che non è esatto quello che è stato scritto, come mi è capitato recentemente, e voglio raccontare anche un caso personale. Ebbene, poche sere fa, mentre stavo preparando questa trasmissione, sono andato all'osteria del Ponte, all'antica osteria del Ponte di Cassinetta di Lugagnano, e prima di andare ho letto le schede, mi sono documentato per capire, e si parlava addirittura di una stanza molto fredda con una stufa a pellet nella parte laterale destra, si parlava di vino della casa. E io, diciamo, ho controllato, completamente fasulle queste due cose, cioè non c'è una stufa pellet, non c'è una stanza laterale, non c'è un vino della casa con una carta incredibile e molto ricca di vini. Ecco, io mi chiedo come possono nascere appunto tutte, diciamo, queste cose che poi vengono raccontate, cattiveria. Certo, TripAdvisor non è completamente responsabile, ci sono anche appunto qualcuno che vuole castigare magari anche un concorrente, vuole castigare un ristoratore, però un minimo di controllo sicuramente ci dovrebbe essere, e non dovrebbe esistere l'anonimato. Comunque continuiamo perché c'è un caso clamoroso che sta emergendo a Bologna, e abbiamo con noi appunto il patron di questo ristorante, che è la catena Bentivoglio di Bologna, Guido Paulato. Buongiorno Paulato. Buongiorno Paolini, come sta? Bene, grazie. Io so che lei ha querelato, mi sembra, una di queste recensioni. Ci può raccontare un po' appunto la storia e perché ha querelato questa recensione? Ma noi abbiamo querelato una signora, una professoressa dell'Università di Bologna, Ferresto, che aveva pubblicato sul suo sito riguardo a TripAdvisor una recensione assolutamente diffamatoria. Premesso che qui non si vuole affossare né io né i miei soci il diritto di critica, ma però bisogna, credo, porre un limite invalicabile che separi il diritto di esprimere opinioni anche negative, perché questo poi fa parte del gioco, criticando, dalla diffamazione. Cioè, in altre parole, sia la critica, anche negativa, perché questo poi rientra nel gioco delle parti, anche perché noi su TripAdvisor abbiamo avuto un attestato di eccellenza, quindi io non è che ce l'abbia con TripAdvisor, però come diceva lei prima, bisognerebbe avere un controllo maggiore su quello che la gente scrive, perché le offese e la diffamazione gratuita non sono accettabili. D'altronde questo ormai è un paese, secondo me, non solo di santi, poeti e navigatori, ma soprattutto di critici nei campi più vari e disparati, dove l'ego di ciascuno di noi, molto ego, trova terreno fertile. Senta Guido, io so che c'è, diciamo che quello che ha fatto traboccare il vaso è vino avariato, se non erro. Sì, difatti la signora non può scrivere che noi serviamo vino avariato e che lei è venuta, lei, cito testualmente, e soprattutto non è ammissibile presentarsi per tre volte di fila e ricevere vino imbevibile. Non parlo di vino cattivo, no, parlo di vino avariato, roba da creare problemi di salute. E questa non una sola volta, ma più volte di seguito. Ma cosa continuate a fare a venire allora, se appunto se il vino era avariato? Allora ti chiedo, sei sciocca, perché una volta, due volte, ma la terza non capisco. Poi questa visita è stata fatta in giugno e il giudizio postato in dicembre. Cioè tutte cose molto strane, insomma. Quindi lei ha dato il via alla querela, se non era? Noi abbiamo dato il via alla querela ieri, o l'altro ieri, era scritto sul Corriere della Sera di Bologna che il PM ha rinviato a giudizio la signora. Ecco, com'è successo, visto che è anonimo, la critica è anonima su TripAdvisor, come avete scoperto? Lì siamo risaliti attraverso questo nickname che lei aveva. Io sono assolutamente malvesto e ignorante di tecniche moderne relative proprio al computer, ma un qualsiasi ragazzino, da mia figlia agli amici di mia figlia, che sono mai degli hacker in erba, certo. Sono Guido io la interrompo perché abbiamo, diciamo che il succo lo abbiamo, ma la ritroveremo appunto quando questo caso andrà avanti, per sapere un po' anche cosa succede. Sentiamo Federico, un radioascoltatore della provincia di Ascoli. Buongiorno Federico. Buongiorno. Prego. Io sono Federico Palestini e chiamo da San Benedetto del Tronto, veramente da Porto d'Ascoli. Ho un'osteria da circa 15 anni, recensita su tutte le guide d'Italia. E ultimamente mi sto rendendo conto che TripAdvisor è veramente un grosso inganno per tutti quelli che vogliono uscire e andare a mangiare in un ristorante. Noi abbiamo fuori dal locale abbiamo il menù con tutti i prezzi scritti, quindi chiunque entra sa quello che spende e quindi non può assolutamente scrivere delle cose. Ma è successo che hanno scritto una recensione completamente fasulla sul suo locale? Sì, certo, più di una volta. Addirittura abbiamo visto una recensione scritta da noi pessima e dopo un'ora l'abbiamo vista in un altro locale, sempre dello stesso paese, scritta in un modo esaltante. Quindi fa capire che in questo portale può scrivere chiunque e tutti possono scrivere quello che vogliono. Bene, grazie. Ma non è finita qui, guardi. L'ultima cosa che volevo dire, perché io proprio oggi volevo intervenire con TripAdvisor, perché noi abbiamo sulla recensione, sul sito addirittura, ci hanno scritto che il locale è chiuso per ferie. E ieri sera un cliente ci ha chiamato dicendoci: ma siete chiusi per ferie? No, perché ho letto su TripAdvisor che siete chiusi per ferie. Questo è un danno che anche chi scrive il portale non controlla, e sarà il caso magari di scrivere qualche riga oppure addirittura di fare una denuncia, ma proprio in tutti i sensi. Bene, grazie. Andiamo a Roma da un importante ristoratore, Romeo Caraccio, appunto. Buongiorno Romeo. Buongiorno a tutti. Di Agata e Romeo, del ristorante Agata e Romeo. Romeo, che ti è successo, Romeo? Diciamo che è un po' di tutto, ecco, il riassunto di tutto quello che hanno detto i miei colleghi precedenti. Però io volevo richiamarmi a quello che hai detto prima, Davide. Cioè, TripAdvisor, secondo me, dovrebbe assumersi le responsabilità di quello che pubblica, perché sennò sarebbe troppo semplice che ognuno scrive, loro pubblica e poi se ne lavano le mani. Cioè, bisognerebbe andare proprio a fondo, perché sennò noi non possiamo, cioè siamo indifesi da questo punto di vista. Secondo me TripAdvisor deve prendersi le sue responsabilità. Se pubblica una cosa è consapevole di quello che pubblica. No, io intervengo anche perché ho avuto molte lettere, nel senso che cioè di consulenze da parte di persone vicino a TripAdvisor, che praticamente si occupano di migliorare la posizione nella classifica con recensioni scritte da potenziali clienti. Ecco, questa cosa qui. Questo è un mestiere che si sta sviluppando, credo che potrebbero esserci molti posti. Addirittura ci stanno anche chiedono anche dei soldi con una lista, cioè fino a 500 euro ti fanno 3 recensioni gratis ogni settimana, se aumenti a 1000 euro te ne fanno 5 al mese, se a 300 euro invece ne fanno, bene, ne fanno di meno, quindi proprio esiste un mercato delle recensioni, ma di che cosa vogliamo parlare? Ma Romeo, ne racconteremo molti di questi casi, anche di offerte molto, molto originali. Comunque ti ringrazio di aver parlato del tariffario e di posti di lavoro. Bene, ora andiamo a Brescia perché c'è forse una prima uscita di un ristoratore che dice: bene, io ho avuto tante recensioni positive, però basta. Voglio protesto e voglio vietare l'ingresso agli utenti di TripAdvisor. Buongiorno a Francesco Giordano del ristorante Ottavo Nano. Buongiorno Giordano. Buongiorno a tutti. Sì, io ho voluto fare questa forma di protesta che vuole essere una protesta perché sono stanco del sistema in cui sono stato inserito senza autorizzazione. Perché tutti pensano, diciamolo, perché tutti pensano che siamo noi a iscriverci, invece no, non è così. Noi ci troviamo da un giorno all'altro inserito in TripAdvisor senza autorizzazione nessuna proprio. Io praticamente all'inizio avevo preso bene, cominciavo a leggere tutti i commenti della rete per cercare di vedere il cliente cosa voleva, dopo a metà dell'anno scorso ho fiutato qualcosa che non andava, leggendo recensioni negative rivolte ai miei colleghi che conosco personalmente, e mi sono detto: caspita, qui c'è qualcosa che non funziona, fammi guardare bene. E ho scoperto numerose cose che non funzionano, che non vanno bene. Ho richiesto più volte di essere escluso dove inserito senza autorizzazione, perché non voglio averci nulla a che fare. Io chiedo anche a tutti i miei clienti che si trovano bene di non farmi recensioni positive, perché non le voglio. Non è un sistema corretto. Finché il sistema permette tanti abusi, io non voglio essere presente. Bene, Giordano, la ringrazio del suo intervento e anche di questa uscita, perché può avere anche un seguito. Sentiamo Corrado da Bergamo, un radioascoltatore. Buongiorno Corrado. Buongiorno, io mi rendo conto di essere un tantino una voce fuori dal coro. Io sono utente soddisfatto di TripAdvisor, precedentemente di altri siti di recensioni, di ristoranti tipo Due Spaghi piuttosto che Il Mangione, e sempre, ma quasi sistematicamente, mangiando fuori per lavoro, sia a pranzo che a cena, consulto i sistemi verifico su questi sistemi le recensioni dei ristoranti. Devo dire che finora non sono mai rimasto fregato, anche perché bisogna fare una consultazione con un po' di grano salis. È chiaro che si dà per scontato che c'è il cretino che fa una recensione sbagliata per un malevole, per qualche motivo, però c'è una buona distribuzione delle recensioni. No, qui ci sono recensioni organizzate, non tanto del cretino. Comunque va benissimo, cioè, ci sono altre voci positive, intervenite cari radioascoltatori, perché ci deve essere l'uno e l'altro, il telefono è aperto per tutti. Sentiamo Gianni dalla provincia di Roma, buongiorno Gianni. Pronto? Sì Gianni, prego, parli. No, non è Roma, sono in Liguria, Dolceacqua, provincia di Imperia. Bene, dove c'è il Rossese, uno dei miei vini preferiti, vado avanti. Grazie, bravissimo. No, io posso dire una cosa: da anni sto combattendo con TripAdvisor, io non ho mai chiesto di essere su TripAdvisor, mi ci sono ritrovato, e ho anche interpellato i responsabili al BIT a Milano di persona, perché è la cosa più difficile trovare di persona. Ho fatto le mie rimostranze, io credo solo una cosa: io ho un ristorante e ho recensioni positive e negative come tutti, ma le negative molte sono false, assolutamente. Ho chiesto: verificate, se uno vi chiama e vi dice che sono false dovreste al minimo verificare. Io non chiedo mica altro, la recensione è giusto che è il giudizio di chiunque. Bene. Ma se c'è uno che palesemente ti dice che sono false, e devi almeno verificare. Adesso le ho denunciati, c'è una causa in corso col Coracos, sono credo l'unico, il primo in Italia che le ha denunciati, con l'associazione albergatori di Venezia che ci spalleggia, tutti quanti siamo riuniti, e adesso voglio vedere dove andiamo a finire, perché non credo che sia possibile ricevere delle mail, come già sentito prima qualcun altro, qualche ascoltatore che l'ha detto, con 400 euro tu hai 20 recensioni positive o negative come tu hai contro il concorrente. Beh guardi Gianni, poi ne racconteremo anche altri. Io la ringrazio, devo passare la linea alla regia, quindi anche da lei sentiremo nei prossimi mesi cosa succederà della sua causa. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Ecco. Eccoci di nuovo a parlare di TripAdvisor. Va bene, continuiamo un po' a girare l'Italia e a farci raccontare, ma a far intervenire anche i nostri radioascoltatori. L'ho detto, 800 24 00 24, chi vuole intervenire appunto in maniera positiva, il telefono è aperto, come per altri interventi ovviamente. Ora andiamo a Firenze, andiamo al ristorante Baccarossa da Amerigo Capria. E buongiorno Capria. Buongiorno Davide. Mi vuole raccontare la proposta oscena che lei ha ricevuto? Quale delle tante? Le racconto forse la più Ma mi piace, mi piace molto quella della cassa di vino, secondo me. Prima c'erano le 60 bottiglie acquistate il 12 maggio, ora invece 60 bottiglie e 5 recensioni. Ecco, questo... Ma posso raccontarle anche altre cose di miei colleghi albergatori che anziché comprare le pantofole o seggetta da un fornitore compravano dall'altro e prendevano recensioni positive. Il discorso è che è un sistema ormai rodatissimo del Black Network, che ci sono dei blogger, dei ragazzi che vengono assoldati da quelli che fanno il black marketing e quindi fanno rating, si chiama Reputation Online. Questa Reputation Online ha un costo. Bene, infatti abbiamo dato anche un sito internazionale a cui ci sono 7 giorni di prova, poi chi non è soddisfatto viene anche rimborsato. Io le dico Davide, allora noi con Aldo Cursano, che è il presidente della FIPE. Sì, lo sentirò dopo. Ci faremo con raccontare. Ecco, Gerai Rapetto, noi abbiamo fatto una crociata. Bene. Lo so, e ce la faremo poi raccontare appunto da lui come associazione. Ma Michele della provincia di Monza Brianza, buongiorno Michele. Sì, buongiorno Paolini, complimenti per la trasmissione. Dica. Senta, io volevo fare, mi ha preceduto un po' l'ascoltatore di Bergamo. Sì. Comunque, sono un utente di TripAdvisor, lo consulto e capisco che gli albergatori, i ristoratori facciano un lavoro dove la passione la fa da padrona, diciamo, per cui si sentono un po' toccati nel vivo, però non riesco a credere, nonostante tutto questi stratagemmi che sembra essere, che ci siano, non credo che si possa controvertire completamente il giudizio della rete, perché chiaramente si trovano all'interno di TripAdvisor anche recensioni che si capisce che sono fasulle da persone che rasentano l'analfabetismo e quelle vanno scartate. Scusi Michele, una cosa però, lo capisce lei, però il pubblico è molto largo, non tutte le capiscono. Poi io non metto, cioè il problema non è TripAdvisor, il problema è il sistema di controllo, perché è giusto che la rete possa dare il proprio giudizio, ma non taglieggiare oppure diciamo chiedendo delle prebende in cambio. È questo che deve essere diciamo spazzato via, non tanto la recensione in sé, ma quello che c'è attorno. Beh, lo ripeto, andate su www.tripadvisorsuccess.com e ve ne renderete conto cosa viene offerto. Grazie comunque a Michele. Io ora ho una brillante giornalista, Roberta Schira del Corriere della Sera, la quale proprio in questi giorni è uscita con un libro, Mangiato Bene, le 7 regole per riconoscere la buona cucina. Roberta, buongiorno. Buongiorno. Secondo te tutti possono fare recensioni oppure bisogna avere anche, diciamo, possedere anche qualche requisito, un po' di cultura? Che ne certo. pensi? Guarda, veramente l'unico modo che ha TripAdvisor per salvarsi, quindi l'utente per salvarsi e contemporaneamente per aiutare anche i cuochi e i ristoratori, è trovare un piano comune su cui parlare, cioè trovare delle regole condivise e trasparenti sulle quali confrontarsi. Io ne ho proposte 7, sono le mie che ho teorizzato in questi 18 anni di attovagliamenti nei vari ristoranti e di studi sul cibo. E quindi credo che finché noi non ci facciamo la domanda di base, riconoscere il buono è oggettivo o soggettivo, non possiamo assolutamente trovare un punto di incontro tra ristoratori e clienti. E quindi io credo, condivido lo stesso concetto che ha espresso proprio nel libro sia Farinetti che Petrini, che il buono si può riconoscere con un po' di preparazione, con un po' di onestà e di consapevolezza. Io sono assolutamente, come dici tu, favorevole alla democratizzazione del giudizio sul cibo, perché io uomo della strada non posso dire la mia. Certo, lo dico, ma primo, non in anonimato, e lo dico con competenza. Questa competenza si costruisce si costruisce, ma si può arrivare a quello. Quindi io sono contro la lobby di pochissimi critici, sai, che io scrivo sul Corriere, potrei anche stare dall'altra parte, pochi critici che possano influenzare il fatturato di un ristorante. Non è giusto, come non è giusto che qualsiasi una persona si alzi il mattino e dica: oh, oggi divento critico e quindi sparo a zero sul ristorante e cerco di stroncarlo. Credo che ci sia una via di mezzo onesta, di consapevolezza e di responsabilità, che consiste nel approfondire, studiare e comparare. La base del giudizio gastronomico, come sulla una critica cinematografica e letteraria, è la comparazione. Tu sai bene che prima di stabilire se un risotto è fatto bene, bisogna assaggiarne 20, 30, ecco perché ci vuole esperienza. Prima di stabilire se un pezzo di carne è cotto al punto giusto, devi avere visitato 100 macelli e aver assaggiato 100 bistecche. Quindi la comparazione è quella che noi chiediamo come minimo di garanzia per capire che una persona fa questo lavoro onestamente. Bene, grazie, grazie a Roberta Schira. Lo ripeto, ho mangiato bene le 7 regole per riconoscere la buona cucina. Sentiamo Giampiero. Buongiorno Giampiero, radioascoltatore. Buongiorno. Prego. Buongiorno, senta, io sono un recensore da sempre, quindi ho all'attivo quasi 98 recensioni con TripAdvisor, lo uso anche all'estero e le posso garantire che le recensioni sono molto molto vicine alla realtà. Le sue? Le recensioni non le mie, le recensioni che io leggo sono molto vicine alla realtà. Chiaramente quella che io ho letto ieri l'altro sera prima di andare al ristorante non era assolutamente vicina alla realtà, era completamente inventata. Sì, ma se lei mi dice che c'è un difetto di controllo, io posso essere anche difetto con lei. Difetto di controllo, di controllo. Ah, ecco, sì. Perché io personalmente ho segnalato decine di recensioni false. Bene. Perché le recensioni false si vedono subito, perché hanno all'attivo una, due, tre recensioni. E poi Giampiero, sono come ho detto al suo collega, come ho detto al suo collega prima, bisogna essere scafati per fare questo. Siccome la rete è libera a tutti, non tutti sono scafati, bisognerebbe trovare dei sistemi tali che diciamo che a tutti sia permesso di capire, e non è facile capire. Quindi credo che un controllo sull'anonimato ci dovrebbe assolutamente essere, perché altrimenti appunto succedono casi, ma non tanto di critica negativa, ho mangiato bene o ho mangiato male, ma pagami perché io ti scrivo positivamente. E questo secondo me è il malcostume. Oppure comprami 5 casse di vino e io ti regalo 5 recensioni. È questo che bisogna combattere, non magari molti contenuti di molta gente che fa in buona fede e scrive che ha mangiato male quel piatto. Quello è un fatto che assolutamente va benissimo, ma è il resto, è il marciume che c'è attorno, non il contenuto in sé della recensione sul ristorante. Grazie Gianluca, già abbiamo con noi ora un altro ristoratore, Gianluca De Maria, da Roma. Buongiorno dalla Fata Ignorante, buongiorno Gianluca. Buongiorno. Mi dica, ci racconti. Allora, sì, diciamo che sul mi ricollego magari se lei vuole, perché di cose da dire ce ne sarebbero veramente tante, all'ultimo intervento proprio della persona che è intervenuta. Sì. E secondo me non è tanto un problema, io vorrei evitare di parlare delle recensioni a pagamento, queste cose, perché in realtà da parte di TripAdvisor, e qui se no li devo difendere, c'è un sistema di controllo, e mi limito a dire semplicemente una cosa: nel momento in cui si può avere comunque un contatto con i clienti direttamente, la cosa più semplice da fare è farsi scrivere per iscritto certe cose, e succede, e a quel punto, contattando TripAdvisor, le recensioni e i tentativi, diciamo, di frode vengono assolutamente bloccati. Però esiste un altro lato della medaglia, e secondo me è questo sul quale TripAdvisor non esercita nessun tipo di controllo, e se volete vi dico anche la mia su cosa si può fare, chiaramente la mia da persona interessata. Esistono delle recensioni che non sono dei giudizi, cioè nel momento in cui io dico ho mangiato da te il pesce male, io non faccio il pesce, lì c'è poco da controbattere, perché TripAdvisor non ha la possibilità di entrare nel merito, perché gli arrivano milioni di recensioni e quindi non lo può fare, questo fa parte della sua policy, giusta o sbagliata che sia, uno la deve accettare o sennò si cancella. Il problema è un altro: esistono un altro tipo di recensioni in cui si dice qualcosa che è evidentemente falso. Le faccio un esempio in 20 secondi. Mi fanno una recensione in cui si parla della carne Kobe, che voi conoscerete, immagino, visto che vi occupate di gastronomia. Sì. e si contesta non il fatto che la mia carne Kobe sia buona o cattiva, e lì ci si può anche stare, ma si contesta il metodo di allevamento. Se volete potete andare sul nostro sito e controllare. Il cliente parla della carne Kobe, dice che io ho cercato di vendergliela come? Allevata ascoltando musica classica, massaggiata con un guanto di crine e bevendo birra. Questi sono i modi in cui la carne Kobe viene allevata. Nel momento in cui un cliente si permette di dirmi che io dovrei andare su Striscia la Notizia, sia ben chiaro, perché, e mi fa tutto un pistolotto sul fatto che in un paese in cui c'è lo scandalo della terra dei fuochi io non dovrei permettermi una cosa del genere, sì. Qui non stiamo parlando di un giudizio che il cliente può dare, qui stiamo parlando di una cosa che è evidentemente falsa, ma falsa, ripeto, perché non c'entro niente io. È come dire che l'Italia è una monarchia costituzionale, io lo lascio dire ai grillini, però l'Italia è una repubblica, ok? Certo. Quindi in questo caso TripAdvisor è assolutamente carente, perché per riuscire a farsi togliere una recensione, diciamo che ci posso riuscire e non riuscire. Allora, in questo caso il mio unico consiglio è fare tutto quello che TripAdvisor chiede, sì. Quindi chiedere la rimozione, eccetera, e se questo non avviene, continuare e andare con una denuncia alla polizia postale e anche dal punto di vista di una richiesta di danni. Bene. Perché nel momento in cui 20, 30, 40 ristoratori si muovono in questa direzione, molto probabilmente qualche cliente ci penserebbe due volte prima di taglieggiarti o di non so per quale ragione. Vediamo questo caso di Bologna, perché se questo caso di Bologna arriva in giudizio, sicuramente con il latte, cioè con il vino avariato, secondo me può essere un precedente molto ma molto importante. Bene, grazie a Gianluca De Maria delle Fatti Ignoranti di Roma che ha dato questi consigli. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo sul finale di questa trasmissione abbastanza controversa. Sentiamo un radioascoltatore, Fabio dalla provincia di Como. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Prego, veloce. Volevo dire, io sono sempre stato abbastanza largo sui giudizi di TripAdvisor. Se mi capitasse di andare in un posto, di mangiare così male da dover ricorrere a cure mediche, io non scriverei una recensione, io andrei direttamente all'ufficio di igiene, cosa che ho già fatto, perché TripAdvisor non è un ente pubblico. E riguardo a quello che ha detto dei ristoratori, che non vogliono essere indicizzati, è una proposta che si potrebbe fare, perché essendo che la rete democratica, uno può anche scegliere di non essere recensito, che se viene scritto il suo nome di essere bloccato e di non essere recensito, perché ha scelto così, perché preferisce il passaparola al popolo della rete. Ma questo è, mi sembra che sia una condotta corretta. Lei dà un giudizio, dà un consiglio veramente così che molti dovrebbero assolutamente seguire se sono taglieggiati o d'altro. Comunque grazie Fabio del suo intervento. Io ora con noi Aldo Cursano, che è presidente FIP Toscana e vice nazionale. Buongiorno Cursano. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Cosa avete combinato voi come FIP Toscana? So che vi siete mossi alla grande, cioè avete cercato anche di contattare TripAdvisor, se non erro. Beh, qui in Toscana c'è stata la rivolta dei ristoratori, anche perché la Toscana, sappiamo tutti, è una formidabile destinazione turistica e quindi chiaramente il ruolo del web nel spostare i visitatori in luoghi gli uni rispetto agli altri svolge un ruolo strategico, al punto che abbiamo constatato e dimostrato un mercato delle recensioni che abbiamo denunciato in un modo forte, violento, perché di fatto la Toscana, ma l'Italia tutta, la ristorazione, la cucina è una cosa seria, il cibo è l'espressione della storia, la cultura. Ma quali sono stati? Di fronte a questa reazione cosa è successo? Beh, chiaramente abbiamo avuto incontri e scontri con i livelli non tanto nazionali ma europei di TripAdvisor, intorno ai quali è chiaro che noi volevamo, come posso dire, creare quelle condizioni affinché le recensioni fossero più con più attenzione verificate perché gli effetti della diffamazione o gli usi distorti del web stavano profondamente rischiando di inquinare un mercato la cui invece recensione in nostro mondo, se veritiera e genuina, è un grande valore perché aiuta anche i piccoli a potersi esprimere. Ma è cambiato qualcosa? Beh, diciamo che abbiamo avuto contrasti, non abbiamo avuto nei vari incontri, ma nell'ultimo anno devo dire che c'è un momento nuovo dove siamo riusciti negli scontri, ma soprattutto a riconoscerci reciprocamente, ma soprattutto nel far comprendere che l'Italia in alcune aree probabilmente hanno bisogno di investimenti, di attenzioni diverse. Ed è proprio oggi che stiamo parlando, proprio qui a Firenze ci sarà proprio un protocollo di intesa importante dove, come posso dire, chi come noi è radicato sul territorio possa svolgere in sinergia con TripAdvisor quella funzione un po' di garanzia, bene, di filtro, e quindi c'è un passo in avanti. Bene, bene. Grazie. E non è male. Grazie Cursano, e speriamo bene appunto che questo sia l'inizio di un lungo cammino. Abbiamo con noi un altro ristoratore, Antonio Consoni del Cenacolo dei Pittori di Villa Raverio. Anche lui ha avuto un caso molto contrastato, Antonio, vero? Sì, ecco, diciamo che il mio desiderio è quello di farmi togliere dal TripAdvisor, a meno che non ci sia più l'anonimato delle recensioni. Cioè, casi fortunatamente negativi ne abbiamo solo un paio, ma una dovuta anche a perché i clienti hanno litigato fra loro e il giorno dopo mi sono trovato la recensione negativa. Poi, se posso dire un caso eclatante, ho qua davanti a me il proprietario dei muri di un ristorante qui vicino che è chiuso da un anno e mezzo, e ci sono tuttora delle recensioni sia positive che negative del 2013-2014. Beh, questo è molto divertente, questo sì, è proprio un finale, sì, come sì, si sì, dice sì, il cacio sì, sui maccheroni. Grazie Antonio Consoni, grazie Paolini, grazie. Buona giornata. Bene, ora sentiamo il fondatore della pagina Facebook Gufo No Grazie. Buongiorno a Roberto Peschiera. Insomma, è un sito dove ricorrono gli anti TripAdvisor, Peschiera? Sì. Buongiorno, buongiorno Paolini. Buongiorno. Sì, io un paio d'anni fa ho aperto questa pagina raccogliendo tutte quelle che sono le adesioni degli insoddisfatti, degli arrabbiati, ma soprattutto era nata da una mia esperienza personale che avevo deciso di vivere affidandomi a una pagina di TripAdvisor per una fine settimana in una zona del sud della Francia, ad Ers Village. Magnificato su TripAdvisor, questo albergo si è rivelato un'emerita schifezza, ma veramente una schifezza. E al ritorno da questa esperienza, da questo weekend, ho mandato una recensione a TripAdvisor che non è mai comparsa, dal che mi sono un po' preoccupato, dico ma come? Grandi recensioni, quelle buone tutte compaiono, quelle negative non ne vedo nessuna. L'errore mio è stato quello di affidarmi al sito dimenticando quello che per 22 anni della mia vita è stata la mia Bibbia, il mio breviario. Io per 22 anni sono stato ispettore della guida Michelin e di recensioni ci abbiamo vissuto, lavorato, ed erano la base del nostro lavoro, ma noi alzavamo l'eterga, passatemi l'espressione in diretta, dalla sedia e andavamo a verificarle tutte, buone, non buone, pessime, cattive, orribili, e ci andavamo e decidevamo se inserire o meno un determinato ristorante, se dargli un determinato riconoscimento o no, ma non ci siamo mai permessi di parlarne male. La considerazione era: se sei in guida ci sarà un motivo, se non ci sei ci saranno altrettanti motivi. E il TripAdvisor è un cancro, mi scuseranno gli adepti della setta, ma io sono molto diretto. Roberto, ripeta il suo Facebook, com'è? Gufo No, grazie. Bene, grazie Roberto Peschiera. Sentiamo Paolo dalla provincia di Macerata. Buongiorno Paolo. Ah, buongiorno, io sono un ristoratore, un ristorante qui a Civitanova. Anche noi veniamo da 121 recensioni di TripAdvisor in questo momento. Recensioni che abbiamo avuto false, state 5 o 6, ma di più addirittura. Qualcuna me l'hanno tolta a forza di minacciarli. Minacciarli addirittura il mio lavoro dopo di cucinare la notte alle 2 di notte e mettermi su TripAdvisor e vedere tutto ciò che diciamo arriva, no? Il giorno dopo, dopo due giorni, no? Di negativo. In questo marasma è un secondo lavoro per me e posso dire che addirittura mi sono arrivate anche delle minacce telefoniche, siamo arrivati con delle burle, diciamo, più che minacce, no? Cioè, ah bene, resterà bene, allora questa sera vado a mangiare dall'altra parte, no? Prendendomi un po' in giro. Ma cose talmente assurde che secondo me TripAdvisor, in maniera molto banale, potrebbe evitare allegando una ricevuta. Perché qui questi signori, in molti casi, cioè nel mio caso ho visto, ma anche in altri casi, basta che hanno un account e possono scrivere quello che vogliono. Da città diverse, account degli amici. E bene, dietro chiaramente ci sono delle organizzazioni. L'abbiamo già detto, abbiamo dato anche dei siti, abbiamo sentito tanti casi. Paolo, questa è la sua, è un ennesimo intervento, purtroppo si va in questa direzione. Bene, Stefano da Firenze, l'ultimo radioascoltatore, veloce Stefano. Salve, più o meno la cosa che volevo dire l'ha già detto il signore che mi ha anticipato ora. Io per lavoro faccio web e diciamo che il web, il problema fondamentale del web è che queste cose devono essere divertenti e anonime per gli utenti. In realtà la cosa semplice che TripAdvisor potrebbe fare è appunto avere utenti certificati e dare più valore a quelle recensioni, semplicemente allegando la ricevuta per dimostrare di essere stati nel posto a cena, a pranzo e aver mangiato le cose che si dice e che si va a recensire. Bene, ma io Stefano vado su questa direzione, nel senso che bisognerebbe rendere consapevoli coloro che scrivono anche delle conseguenze, quindi di essere consapevoli che se scrivono in maniera negativa possono dimostrare di fronte a una querela, appunto di fronte ad altro, che è un fatto negativo, cioè quel vino ha variato, bisogna dimostrare che quel vino ha variato. Se un piatto uno è stato male, va e si fa fare un certificato medico e controllo. Ci dovrebbe essere un minimo di controllo. Poi sicuramente è un metodo democratico di recensioni dove si contrastano pareri ovviamente diversi, e è giusto che sia così, perché anche tra chi super esperti c'è chi vede un ristorante bene e chi lo vede male, ma non arrivare alla calunnia oppure arrivare alle minacce o alla vendita della propria recensione. È questo che bisogna togliere, e devo dire che su questo probabilmente non ha tutte le responsabilità TripAdvisor, molti le hanno coloro che scrivono, che sono consapevoli di denunciare il falso e di fare sicuramente anche degli affari appunto con la loro recensione. Bene, dovrei sentire tanti altri radioascoltatori, purtroppo è giunto al termine, e io ringrazio un po' tutti di aver partecipato, soprattutto i ristoratori, e quindi chi non vuole essere recensito, bene, si tolga da TripAdvisor. Credo che questo sia possibile, e quindi a quel punto possono cessare tutta una serie di dubbi che vengono appunto portati avanti dai ristoratori. Io vi auguro a tutti un buon weekend e magari di trovare anche il ristorante giusto con le recensioni giuste, o magari guardare tra le righe di essere sicuri dove si va in base a quello che si legge. Buon weekend da Davide Paolini.